Good morning everyone. Vuol dire buongiorno a tutti in inglese. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Arriva quasi in zona tiro per Suso, palla sul sinistro, alzati su di lui, Suso, rete, il vantaggio! Candreva, zona tiro, Candreva, palla sul destro, Candreva, parte il tiro, rete, Candreva, gol bellissimo, il pari dell'Inter! La pallone per Suso in area, palla sul sinistro, poi sul destro, Suso! Milano in vantaggio ancora, Suso! Parte il cross, colpo di testa, Perisic! Perisic! Il pari dell'Inter! Sono contento dello spirito, assolutamente, della voglia che ha messo in campo i giocatori, del fatto che comunque abbiamo ripreso il risultato due volte. Ho visto tante cose positive, ma tante altre sulle quali sicuramente dobbiamo crescere se vogliamo risalire la classifica. Io credo che i ragazzi debbano andare a casa molto contenti questa sera, non gliel'ho mai chiesto, magari guardare un po' la classifica e guardare anche chi magari alla vigilia era più attrezzato di noi e vedere dove sta, insomma, mi piacerebbe che tutti andassimo a letto con il sorriso, anche se sarà dura dormire, ecco. A dormire ridendo dopo aver preso un gol al 96esimo è rotto un po' difficile, però secondo me, interrogo anche voi, cari amici convocati 800240024, ok, il risultato è giusto per quello che si è visto in campo. Io ho visto una bella Inter nel primo tempo, un Milan molto furbo, molto arguto, tre gol straordinari. Ho fatto un po' fatica, come credo molti di voi, a capire in televisione qual era l'Inter e qual era il Milan, perché mai mi è successo in vita mia di vedere due squadre che giocavano praticamente con la maglia nera. Quindi questo è uno dei temi, non lo so, ovviamente collaterali di un derby, di una giornata di campionato di cui parleremo ampiamente, però è qualcosa di interessante, anche perché ieri sera c'era il primo esperimento, e poi Pardo ce lo racconta dato che ha fatto questo commento su Mediaset Premium, del primo esperimento televisivo in 4K, che io sinceramente, essendo piuttosto arretrato dal punto di vista tecnologico, e questo non è una sorpresa, lo confesso candidamente, non so nemmeno bene cosa sia. Intanto vi do una notizia di cronaca che metterà qualche brivido ai tifosi della Juventus. Fuori Higuain e Benatia, che non sono stati convocati per il Siviglia, hanno entrambi problemi fisici e dunque non andranno a Siviglia per una partita cruciale per la Juventus se vuole arrivare al primo posto nel suo girone. Poi altri temi, quanti ne volete, c'è Spalletti sotto accusa, ieri è stato sbeffeggiato quasi da Gasperini e dalla sua meravigliosa Atalanta. Il Napoli prova a tenere il passo, ma la Juve ha già scavato più di un solco, ha già scavato una trincea. Dovrebbe esserci con noi Giovanni Capuano. Ci sei, Gio? Eccoci, Carlo. Era il nostro infiltrato ieri. Raccontiamo un po' la storia. Sei stato invitato da Poppi Bonnici ad assistere alla produzione del 4K, giusto? Sì. No, 4K e non solo, insomma, a vedere come si produce una partita, una grande partita del campionato di Serie A, e dove insomma si sta cercando di portare il calcio italiano dal punto di vista televisivo per renderlo un po' più apprezzato e apprezzabile altrove, visto che leggiamo sempre, parliamo sempre, no, dei grandi soldi che prende la Premier League, li prende anche perché ha un racconto che noi fin qui non abbiamo avuto. E insomma, ieri mi hanno spiegato un po' come fare. Certo, loro le maglie le tengono diverse. Bravissimo. E questo è il punto. Ma scusa, ma fammi capire. Ma te, tu hai lunghissime esperienze di frequentazioni di stadio, di partite di calcio televisive, non solo da giornalista, da spettatore, da commentatore, eccetera. Ma ti è mai capitato di vedere due squadre che giocano con la maglia nera? Guarda, due squadre che giocano con maglie così cromaticamente vicine, una partita così importante, se devo essere sincero, no. Anche se devo dirti che per tradizione nel derby di Milano, sì, Inter e Milan non giocano mai con la seconda maglia. E questo io credo sia apprezzabile. Il problema sì, è okay, che il marketing odierno ha spinto all'estremo la ricerca e la scelta cromatica. E quindi ieri sera che cosa è successo? Due cose sono successe. Il primo è che il retromaglia del Milan, tutto nero, si confondeva in maniera inquietante con le tonalità della maglia dell'Inter. E la seconda, che pioveva. Sì. E piovendo i colori, soprattutto il rosso del Milan, si scurivano ulteriormente, diventando quasi un nero. Ti dico che ieri nelle due cabine regie che ho avuto il privilegio e la fortuna di vivere, questa cosa qui insomma ha creato qualche fastidio, ha creato qualche difficoltà, perché ovviamente c'era la difficoltà nello distinguere, e soprattutto guarda, lì dentro in quelle cabine tutte chiuse arrivava comunque l'eco di quello che stava succedendo fuori, perché poi i social li leggono anche lì, e dai primi minuti sono stati sommersi di critiche, quando in realtà la responsabilità è tutta dell'arbitro, perché così prevede il regolamento. Poi se vuoi facciamo anche chiarezza, insomma. Sì, no, facciamola subito, Giovanni, facciamola subito. Guarda, chiarezza. È scritto proprio, c'è una regola che parla dei colori delle due squadre, è la regola 4. Le due squadre, dice questa regola, devono indossare colori che le distinguano una dall'altra e dagli ufficiali di gara. È precisa perché poi parla anche delle maglie dei portieri, che devono essere diverse l'una dall'altra, le sottomaglie per chi le usa d'inverno, che devono essere dello stesso colore. Cosa succede? Succede che nel caso in cui i colori siano poco riconoscibili, deve decidere l'arbitro obbligando una delle due a cambiare maglia. In questo caso doveva obbligare l'Inter, perché in Serie A vige, che è la squadra in trasferta, a farlo, e non l'hanno fatto. La spiegazione che mi pare di aver capito è questa, che in realtà si è trattato di un problema televisivo. Cioè ad altezza campo Tagliavento, che insomma è uno che ha 370 partite in carriera ed era tra l'altro coadiuvato da Orsato, da Valeri, cioè gente che ha centinaia di presenze, non aveva quel problema. È stato un problema di calcio televisivo. Guarda, quante volte abbiamo sentito insieme dire Dan Peterson nelle telecronache del basket americano: maglia chiara in casa, maglia scura in trasferta. Forse sarebbe il caso di applicare questa regola molto semplice. Oppure molto sarebbe logica, il caso di chiedere ai signori di Nike, Adidas, Puma, tutti gli altri. Adesso ne citiamo tre per citarli tutti. Di fare qualcosa che più sia più rispondente alla tradizione. Io preferisco un derby in cui l'Inter gioca in nerazzurro e il Milan gioca ma in rosso-nero, piuttosto che altre soluzioni. Però per cortesia, signori, fatele diverse. Grazie Giovanni, ci sentiamo e ci vediamo presto. Ciao, un abbraccio. Allora, ci fermiamo per il traffico. 800240024, siamo partiti da questo dettaglio, poi andiamo nell'analisi più precisa del derby e anche delle parole di Berlusconi, che ieri sono state in qualche modo strane. Traffico. Tutti convocati. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Tutti convocati. Sono anche, se mi permettete, un pizzico di, come dire, di goiardia derby, del derby, vedere gli avversari, che è una squadra secondo me costruita per competere per lo scudetto, uscire da campo dopo un pareggio come se l'avesse vinto, un pizzico di soddisfazione c'è. Puntura di spillo di Montella dopo il derby. Ora leggo un messaggio WhatsApp che mi arriva. Non vorrei rientrare in questa polemica, ma se volete lo facciamo. Ieri scontri dopo Atalanta-Roma, scontri tra tifosi, sono due tifoserie che mal si sopportano. Io ho ricordato l'episodio, e continuerò a ricordarlo, di un paio di estati fa, quando alla festa dell'Atalanta ci fu quel carro armato che schiacciò due macchine dipinte con i colori del Brescia e della Roma, dicendo che secondo me non era il caso. Sono stato sommerso di critiche, ma è una goliardata, ma è una festa bellissima. A me non sembrava il caso, però quando ieri ho visto che si menavano fuori dallo stadio, quell'immagine mi è tornata in mente. Perdonatemi, continuo a rimanere della mia idea, ma voglio parlare del derby con un grande ospite come Alberto Zaccheroni. Buongiorno Zac. Buongiorno a tutti. Senti, partiamo dalla puntura di spillo di Montella che abbiamo appena sentito. Hanno festeggiato come avessero vinto lo scudetto. D'altra parte hanno pareggiato in tempo di recupero una partita che l'Inter non ha meritato di perdere. Non meritava di perdere. Vabbè, di là che l'Inter era fuori casa. Che questo, onestamente, per me si è contato poco. C'era l'entusiasmo, loro vengono da un periodo che poi dei giocatori se ne dicono tante, però quando le cose vanno male non è che il momento lo vivono con grande serenità. Certo. Qualcuno può pensare che qualcuno se ne possa fregare, magari c'è questa rivalsa, no? Però sì, onestamente non la vivono bene, quindi dentro di loro c'era, ma si vedeva anche in campo, perché non è che avevano giocato molto ordinati, tant'è vero che subivano spesso le ripartenze del Milan. Milan, come ha visto la partita, tipo di partita che faceva l'Inter, molto aggressiva in avanti, ha scelto la soluzione delle ripartenze. Giocato una partita furba. L'Inter era più tonica, l'Inter era molto tonica, molto determinata, adrenalina 1000. Poi dopo succede in questi casi quando cambia allenatore, perché la gerarchia viene completamente azzerata. Nessuno, certo, è nella mente di Pioli, quindi nessuno sa se Pioli lo vede bene o lo vede meno bene. Ma lei come l'ha visto? Cioè, quali novità ha trovato tatticamente nello scacchiere nerazzurro con Pioli? Beh, da dietro, come Del, più personalità sicuramente, più iniziativa. Centrocampo, l'ingresso di Kondogbia sul piano fisico ha dato molto, sul piano della velocità della manovra ha dato meno. Però se guardo il centrocampo del Milan e dell'Inter, devo dire che quello dell'Inter mi ha soddisfatto maggiormente, perché era più in partita, i componenti facevano sia la fase difensiva che la fase offensiva. Sì. Mentre dall'altra parte Locatelli ha fatto più fase difensiva. Molto bene, cioè, peraltro. Ha tenuto una posizione intermedia, ha preso poche iniziative, l'unico era Bonaventura a centrocampo che ha preso molte iniziative. Sì. D'altra parte, come ci spiegava giustamente, il Milan si è guardato nello specchio dell'Inter e ha scelto in quel momento quale partita fare, no? Quindi esatto, un Milan di difesa bassa e ripartenza che ha pagato con quei due meravigliosi gol di Suso. Ieri abbiamo visto tre gol che è raro vedere, tutti e tre, sì, in una partita. Certo. Ma lì poi devo dire che non so, il Milan l'ha anche interpretata volutamente a un certo punto la partita, però il Milan non voleva snaturare le proprie caratteristiche. Secondo me il Milan voleva fare la partita. È che l'Inter è stata talmente aggressiva e soprattutto a centrocampo è stata più attiva, voglio dire, come dicevo prima. Più giocatori predisposti a fare sia fase difensiva che fase offensiva. Poi Candreva più dinamico dell'altra volta, non ha stazionato sulla fascia e si è centrato molto. Ecco, l'Inter aveva il problema, secondo me, che troppa distanza tra Ansaldi e Perisic. Sì. Perisic è stato più punta delle altre volte, no? Sì. Cioè, solitamente lo vediamo molto decentrato, invece ieri era più attivo al centro. Si è centrato molto di più, ha cercato, probabilmente gliel'avrà detto anche Pioli, dai un maggiore sostegno a Icardi, cerca di stargli un pochino più vicino, però questo ha fatto sì che questa fascia qua era un po' scoperta. Tanto è vero che Ansaldi non aveva mai raddoppio di marcatura su Suso, e Ansaldi secondo me le cose migliori le fa quando ha la palla, in particolar modo sulla fascia destra, non sulla fascia sinistra. Posso chiedere di scegliere il gol più bello tra quei tre che ho citato? Beh, lasciamo stare quello di Perisic, importante nel finale eccetera, però non esteticamente meraviglioso, ma tecnicamente il gol più bello qual è stato? Ma io preferisco il primo di Suso. Il primo di Suso anche. Il primo anch'io, di Suso anche. Poi anche perché guarda sempre come si posiziona l'avversario, su quale fianco si mette. Bravissimo. Veramente molto. L'altro è quello di Candreva, è molto bello anche quello, per potenza, precisione. Anche se forse il difensore doveva uscire un po' prima, no? I casi sempre. In quei casi sempre ha avuto troppo spazio, pure considerando che era molto vicino alla porta. Beh, comunque tre gol meravigliosi, obiettivi realistici per queste due squadre. No, allora, il Milan guarda, secondo me ha personalità. Il Milan secondo me è una squadra con personalità, l'Inter non ancora, ma obiettivi realistici quali possono essere a lungo termine? Il Milan ha più personalità perché ha già un'identità di squadra. L'Inter adesso ha cambiato per l'ennesima volta allenatore, la deve ricercare e la deve costruire. La differenza è lì, perché come organico forse l'Inter, se vai a guardare l'intera rosa, senza forse ha qualcosa di più del Milan. Sì, sono d'accordo. Per chiudere, campionato già insomma ipotecato, no? Sì, io ripeto quello che ho detto di inizio stagione, secondo me lo può perdere solamente la Juve, certo. Perché non c'è la seconda forza, ovvero una seconda forza che mostri una certa continuità nel tempo. Vero, verissimo. Solo la Juventus può buttare il bambino giù dalla finestra, e se c'è qualcuno abbastanza bravo da prenderlo al volo, allora lo scudetto sarà suo, ma non credo che accadrà. Grazie, mister. Grazie. Grazie a voi. Grazie, ciao. Un piacere. Ciao Alberto Zaccheroni. 800 24 00 24, problema di Sergio da provincia di Bergamo. Io volevo farvi sentire un paio di cose che ha detto Berlusconi, cominciando da questa. Abbiamo assicurazioni molto precise anche dalle banche che il 13 si chiuderà. Sì, è un delirio. Quindi vediamo, aspettiamo quando arriva il 13, sì, poi vedremo. Se non si sarà concluso, vediamo cosa fare. Fiducia, io penso che ci hanno dato assicurazioni valide. Allora, se non sarà chiuso, poi vedremo cosa fare, dice Silvio Berlusconi. Ho fiducia, ma se non sarà chiuso, vediamo poi cosa fare. Ha però aggiunto anche questo sulla sua eventuale presidenza onoraria, che poi onoraria sarebbe solo fino a un certo punto. Penso che potrebbe anche provarsi una situazione del genere, però dovrei avere qualche possibilità di intervento, per esempio su un sì o un no sugli acquisti o sulle cessioni e anche sullo schema di gioco in campo. Se questa cosa mi verrà attribuita, proverò ad accettare anche la presidenza honoris causa. Presidenza honoris causa del senatore a vita, che si alza e dice: no, aspetta un attimo che sta legge non passa, aspetta un attimo, quel decreto va bocciato. Presidenza onoraria sarebbe in questo caso fino a un certo punto. Sergio, buongiorno. Buongiorno, io sono un tifoso milanista da ben 53 anni. Sì. Abito a Bergamo, sì. Io parlo adesso del Milan. Io ieri sera ho visto il Milan. Sinceramente, sì. Era quello con i pantaloncini neri il Milan, eh? Esatto, facevo fatica anch'io a riconoscerlo. Ma il problema è che io, tra le due squadre, se le mettiamo assieme, non tiriamo fuori una squadra, perché tre gol come sono stati fatti, specialmente il quarto, il pareggio di Perisic, ai tempi delle difese di Milan e Inter, io parlo dei Maldini, dei Baresi, dei Costa Curta, quei gol lì non sarebbero mai capitati. Questo può essere. E poi dopo le parlo un attimino dell'Atalanta. Sì, l'Atalanta. Poi ne parliamo con calma, perché l'Atalanta, secondo me, è la meglio squadra di Serie A in questo momento. Esatto, oggi. Io le dico una cosa, dopo la lascio, per il mio cuore milanista, e d'altra parte, abitando a Bergamo, tifo anche Atalanta, ma io le devo dire per dover di cronaca una cosa. Uh-huh. Meno male che la dirigenza atalantina ha lasciato lavorare e lascia lavorare Gasperini. Sta tirando fuori dei giovani qui da far veramente paura, tra cui un giovane che nessuno ne parla, che adesso è al Torino e che abita il mio paese, è un certo Andrea Belotti. Sì. Andrea Belotti era dell'Atalanta, poi è andato alla Dino Leppe, poi dopo è tornato all'Atalanta. Sul fatto che nessuno ne parli o qualcosa da dire, da ridire. Sì, ma adesso ne parlano. Adesso ne parlano perché sta venendo fuori. Sa qual è la statistica delle reti segnate nel 2016? Cioè anno solare? Che gol, eh? Anno solare, Higuain 29, Belotti 21. Anno solare 2016. Adesso se ne parla, ma Belotti, insomma, è il centravanti titolare della nazionale. Adesso e credo anche dopo. Sergio, grazie, ci sentiamo subito dopo la borsa. Arriva anche Pardo, 800 24 0024 è il numero verde. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole, nuova meta, stessa passione. Tutti convocati. Molti ascoltatori che sono carichi, tra poco li faremo parlare. 800 24 00 24, scrivono anche 349 238 6666, cose come: da milanista si stava meglio l'ultimo periodo che Silvio Berlusconi non parlava, oppure: ma i tifosi milanisti lo vogliono un Berlusconi presidente mica tanto onorario, come l'ho definito io prima, secondo le sue condizioni, che però non ci mette i soldi. Sono domande che restano lì. Saluto Pierluigi Pardo oggi per cameo. Tutto bene, tutto bene. Tutto bene, scusate, ma oggi ho dei preparativi un po' complessi per ti raga. Senti, però, no, dimmi solo una cosa prima di far sentire a te a un grande ospite che è già in linea, un nostro amico. Cosa ha detto Liguori? Ieri sera hai commentato in 4K il derby, ma quelle magliette tutte nere, io non capivo niente, non ho guardato in 4K perché non ho la televisione adatta, ma me ne sono accorto subito e ho pensato, poi invece guardando l'immagine che ero sul monitor, che ero fortunato per il 4K perché un pochino meglio si distinguevano. Io vedevo meglio dal monitor che dalla TV, che è abbastanza impressionante, perché evidentemente il 4K tira fuori delle gambe di luce, adesso non lo so perché, però essendo un HD di ultimissima generazione, sì, quattro volte meglio. Che io sto con Dan Peterson, maglia, dicevo prima, maglia chiara in casa, maglia scura in trasferta, dice mio amico Dan Peterson, una follia per i telespettatori e anche per gli spettatori che mi scrivono, anche allo stadio si capiva niente, una dovevo guardare dalla cintola in giù, il che è abbastanza paradossale. A costo di sembrare megalomane, che ho parlato col bordocampista e insomma ho cercato durante l'intervallo di far presente questa cosa, perché secondo me non c'era l'immagine, poi non so come si andrà a finire. Francamente, cioè, so che andrà a finire che non hanno cambiato le maglie, però è stato veramente un grande peccato. Vabbè, c'è chi scrive: basta queste magliette, i pantaloncini erano diversi, oltre ai calzini, e ciò bastava. Se bastava a voi, starò invecchiando. Ma a te e a Marco. Il bordocampo mi ha detto che anche Montella si è lamentato. Ma sì, ma dai, è stata una sciocchezza inaccettabile. A te, a Massimo Mauro, che saluto. Ciao Massimo. Ciao. A te, a Pardo, voglio far sentire cosa ha detto ieri a questi microfoni subito dopo la partita, un certo Paolo Liguori. Per fare come la Juve bisogna essere la Juve. Quando la Juve gioca a Bergamo o quando gioca a Empoli non fa tutta questa fatica, diciamoci la verità, perché ci sono vecchie e consolidate tradizioni di vittorie della Juve su questi campi, non c'è niente da fare. Però non mi dire che sei della tesi del si scansano, poi arriva la Roma e non si scansano più. È così, no, dai. 6-7 partite in meno la Juve le fa nel campionato. 6-7 partite in meno. Voi, lo dice pure Buffon. No, a parte che risulta che Buffon non lo abbia detto, ma comunque, Massimo Mauro, ieri c'era poco da scansarsi, c'era un Atalanta che in questo momento, ho detto prima, non so se condividi, è la miglior squadra del campionato in questo spicchio di campionato. Sì, condivido, però insomma la forza dell'Atalanta sarebbe stata messa in grave crisi se Salah tirasse con molta più convinzione, certo, come spesso tirano invece gli attaccanti della Juve quando si trovano da davanti alla porta. Sì. Questa è una differenza. E non perché si scansano i difensori, No, vabbè, è un'opinione un po' stravagante, ma è un'opinione poi detta da un appassionatissimo della Roma, quindi sì, sì, certo, per dire, Paolo Riguardo è una persona intelligente, è un provocatore molto arguto, piacevole da ascoltare, vero. Però insomma, dovrebbe capire però che poi la cattiveria sportiva, la voglia di vincere, la mentalità sono in pratica cattiveria nel tirare forte davanti alla porta e non cercare solo l'estetica come spesso passa là. Uh-huh. E se l'Atalanta fosse andata sotto 2-3-0 come la Roma meritava nel primo tempo, il secondo tempo si poteva gestire in maniera completamente diversa. Questo è chiaro. Questa roba qui diventa un alibi, ragazzi. Io veramente non sono affatto d'accordo con questa valutazione. E stasera dillo a Liguori, ce l'avrai a Tiki Taka, no? No, non c'è. Ce l'avrò, ma Paolo è un amico. Ma un amico anche il nostro. Incontro, glielo dico, però io penso che questa roba qui rischi veramente di essere un alibi. La Juve in Italia non è che vince perché gli altri cazzo. La Juve in Italia vince perché è la più forte di tutti. Magari in certe partite non è la più bella di tutti. Magari in qualche circostanza ci sono dei picchi di rendimento di altre squadre, la Roma sicuramente, ma lo stesso Napoli quando gioca bene, che possono essere anche superiori dal punto di vista della spettacolarità, ma la Juve ha meno punti deboli, quindi poi alla fine ha meno punti deboli, ha più mentalità, ha più abitudine, ha più esperienza, e quindi alla fine vince le partite. Che poi questo possa in generale in un avversario, ma questo fa parte di tutto della vita, del tennis. Se tu vai a giocare con Murray e sei il numero 100 del mondo e stai sotto 4-0 al primo set, magari un po' ti deprimi, questo magari può succedere qualche volta, ma non è molto diverso da quello che succede con la Roma o con Napoli. Io ho raccontato recentemente Roma-Palermo e Roma-Bologna, e sono partite dove la Roma ha dominato e volendo andare avanti con quella metafora si può dire che Bologna si sia scansato, ha fatto una formazione stranissima quella sera, ma ovviamente non si è scansato, ma perché la forza della Roma quando è in giornata è talmente forte. Dimmi Massimo, dimmi. No, ma non c'è bisogno di tutto questo commento di Pier, diciamo, rispetto alle cose dette da Liguori, perché onestamente lasciano il tempo che trovano, cioè. Senti, e invece è molto interessante quello che dice Spalletti rispetto a questo, che sta trovando tantissime difficoltà a incidere nella mentalità di giocatori che sono bravissimi, sono pagati il giusto, ma spesso non tutto questo non si tramuta in... Posso anche dirti che ieri Spalletti è stato battuto nettamente da Gasperini? Il primo tempo Spalletti ha strabattuto Gasperini, se vogliamo dirla. Poi Gasperini lo adoro, quindi non è una valutazione sui due allenatori, secondo me. È che poi Gasperini ha capito, ha cambiato e ha messo in difficoltà la Roma. Appunto. Però se diciamo ci fosse quella mentalità che c'è a Torino, a Roma, arriverebbero pari all'ultima giornata con la Juve, perché dal punto di vista tecnico non gli manca niente. Anzi hanno qualcosina in più a metà campo della Juve. Il problema vero è che a Torino c'è un ambiente ideale per vincere, a Roma purtroppo gli allenatori fanno fatica a creare quell'ambiente ideale all'interno della situazione per vincere. È così, bisogna farsene una ragione. Lo so, ma fatemi capire una cosa. Allora, ieri sono stato smentito, non ricordo se da Toni Damascello o da qualcun altro, quando ho detto Allegri forse sta, come ha detto molte volte, sta pensando ad arrivare a marzo nelle condizioni migliori possibili. La Juventus non gioca bene, questo è un tema stradibattuto. Quando comincerà a giocare bene, che succede? Andiamo tutti a casa? Sì. Ma può fare anche a meno dei gol di Higuain adesso. Ieri Montella è stato straordinario rispetto a questo, ma giocare bene che significa? Io sfrutto alla grande le occasioni, le caratteristiche dei miei giocatori, e quindi non posso imporre proprio il mio gioco, ma ho dei contropiedisti e quindi gioco in questa maniera qua. La Juve sta facendo uguale, voglio dire, la Juve secondo me ha sottovalutato un po' i problemi che aveva a metà campo. E Allegri in maniera straordinaria sta cercando di saltare il gioco a metà campo, di far arrivare la palla immediatamente lì davanti. Esatto. E questo è sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri giocatori. Altra cosa sarà la Champions. Sì, questo se in Champions, cioè, gli ultimi tre turni, non sperando che la Juve superi questo turno, se non giochi meglio degli altri, perdi. Chiaro, questo è chiaro. E magari a questo che sta pensando Allegri. E posso dire che questo, secondo me, tornando in una sorta di ragionamento circolare, era anche il famoso ragionamento di Buffon, perché io ho avuto modo di parlare con Buffon in generale sulla qualità del gioco della Juve. Il tema è questo. Il tema è esattamente questo. Non è che in Italia si scansano, è che in Italia tu puoi vincere delle partite per pura inerzia, per pura qualità dei tuoi giocatori. Come facevano le grandi squadre, insomma, vi ricorderete per esempio l'Inter di Ibrahimovic, che ma giocatore sì, è stato Ibrahimovic? Sì, Pierluigi, ma sì, no? Ma sì. La Juve di Capello. La Juve di Capello. Di Capello. Cioè, voglio dire, questa roba qui c'è perché questo tipo di ragionamento ti può anche bastare. Se vai in Europa hai bisogno di una grande produzione di palle gol, di una qualità, di una capacità di gestire il pallone, che in questo momento anche la Roma di Capello, ti ricordi la Roma di Capello? C'aveva Emerson davanti alla difesa, Tommasi che era un straordinario che correva dietro a tutti, ma poi in difesa aveva Samuel, che fu soprannominato il muro, se vi ricordate, no? Che è quelle partite i giocatori della Roma sapevano che quantomeno sarebbero finite 0-0. Cioè, poi c'era Battistuta, Totti, Nakata in quel periodo che giocò delle grandissime partite e la Roma ha vinto lo scudetto. Ma certo. Ragazzi, i fatti sono questi, le chiacchiere. Sì, ma Massimo, quello che a me fa impazzire è che ci sono ancora dei tifosi della Juventus, e sono tanti, che dicono: ma quel bischero di Allegri, guarda come si gioca male, siamo tutti scontenti, insoddisfatti, depressi perché facciamo schifo. Io questa cosa sinceramente da non juventino fa quasi arrabbiare, posso dirti. Un po' la ricerca della vittoria attraverso magari qualche trama più ma interessante si potrebbe ma anche provare, questo certamente, no? Ma non è che Allegri questo non lo voglia fare, ma ci mancherebbe altro. Però è più importante passare alla storia per aver vinto 4, 5 e magari 6 scudetti di fila. Onestamente, anche a me, che piace il Barcellona, mi piace, non lo so, il Liverpool di quest'anno, però onestamente poi alla fine, fine scudetti di seguito, mamma mia. Alla fine guardi il tabellone. Fanno venire un'invidia, porca miseria, di quelle esagerate. Grazie Massimo, un grazie abbraccio. A voi. Ciao Massimo, io saluto anche Pardo. Ci sentiamo domani, Pierluigi. Ciao, amico mio, grazie. Ciao, di Chitaga stasera, Mazzardi, Berlusconi, Amelia, di tutto di più. 23.05, Dario. Ciao. Ti vedo dopo. Grazie, ciao, scusate, ciao, domani ciao, ci rifacciamo. Ciao, traffico. Tutti convocati. I love this game. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. Convocati. Mi sembra che ci sia la passione di Pioli trasmessa alla squadra e quindi la squadra ha giocato con tanto carattere. È stato importante per l'Inter questo pareggio all'ultimo minuto? Sì, certamente è stato importante, sarebbe stata una delusione grave e perdere, anche forse ingiusto, perché l'Inter ha giocato bene. Lei, se fosse in Silvio Berlusconi, cosa farebbe? No, non mi mettono, già c'ho i miei di panni, metterli in quella degli altri in alto. Questo Massimo Moratti, che non è più presidente onorario, però ama sempre parlare dell'Inter sotto i suoi uffici il lunedì mattina. No, secondo me lo fate apposta, quando mi scrivete Allegri è incapace di allenare ad alto livello, cioè, secondo me lo fate apposta, mi prendete in giro. Allegri, che pure è ancora un giovane allenatore, 3 scudetti, 2 Coppa Italia con la Juventus, 1 al Milan, 2 scudetti con la Juve, 2 Coppa Italia, una finale di Champions League, adesso avviato verso nuovi lidi, è incapace di allenare ad alto livello. Allora va bene, le vedove di Conte sono proprio inconsolabili. Alessandro, buongiorno. Sì, salve, grazie. Dunque, en passant, prima di passare all'argomento, io voglio dirvi che le, le sciocchezzuole di Liguori, delle quali poi i primi a provare imbarazzo saranno i romanisti sicuramente, fanno ridere una volta, due volte, ma poi anche basta, grazie. Cioè, vabbè, ma Alessandro il suo pensiero se lo tiene, sì, carità, sappiamo che Liguori è un provocatore, sappiamo che è un tifoso, poi prendiamole così come vengono. Senza, vabbè. Comunque volevo dire, allora, partendo dal presupposto che vale in generale, proprio non solo nel calcio, nella vita, che come diceva il grandissimo Fricantoni, la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. Sì. Cioè, nel momento in cui, e io sono gentile, nel momento in cui hai due attaccanti titolari in rosa e puoi fare il turnover col Pescara, cioè, io lo dicevo prima, ovviamente non ho le prove, ma Higuaín, che tra l'altro veniva dal viaggio in Sud America, anche se ha giocato poco, decine di migliaia, ma farlo giocare contro il Pescara, cioè, secondo me, e ovviamente la sfiga ha colpito lì, è chiaro. La sfiga, ho capito, la sfiga ha colpito lì, però insomma non è che sia partito infortunato, poi la sfiga ha colpito lì, forse si poteva risparmiare. Tra l'altro Higuaín, ne parlavamo anche ieri, un argomento interessante, in questo momento sta facendo da sponda per Mandzukic, il che è piuttosto curioso e paradossale, viste le sue capacità realizzative, in attesa che torni Dybala, che insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Però fatto sta che lì la sfiga ha colpito e Higuaín non andrà a Siviglia, come detto. Francesco, grazie Alessandro. Francesco, buongiorno. Buongiorno a voi tutti, grazie per l'invito. Dica. Io volevo fare una considerazione da interista sul centrocampo dell'Inter. Sì. Vorrei togliere la croce da Ansaldi, perché Suso ha fatto un gol magnifico e l'aveva già visto 10 secondi prima come avrebbe tirato la palla. Perché è un fuori classe quel ragazzo. Il problema è che è un Dogbia che ha fatto partire Bonaventura a 50 metri palla piede, gli ha fatto arrivare la palla come voleva. Dogbia ha deluso per l'ennesima volta. Sa che sono abbastanza d'accordo con lei. No, se si vedono le immagini, trellando, mentre Bonaventura correva. Nel centrocampo bisogna correre. Sono abbastanza d'accordo con lei. Anche a me, secondo me, ieri sera è piaciuto tra il poco e il pochissimo. Non sono convinto di questa scelta che ha fatto Pioli per le sue ragioni. Poi ha ragione Zaccheroni quando dice che comunque l'Inter ha provato a prendere il pallone del gioco, ha avuto maggiore possesso palla. Questo non significa, rispondo ad un ascoltatore che ha scritto prima, avere maggiore personalità. In questo momento il Milan è una squadra di maggiore personalità, sa cosa fare. Ieri sera praticamente ha lasciato che l'Inter le si appoggiasse addosso ed è ripartita in contropiede. Francesco, buongiorno. No, Francesco, dopo mi aspetta per favore un attimo, Francesco. Riccardo da Padova, certo. Mi aspetto un attimo, abbiamo il GR, poi torniamo subito, le do la palla. Tutti convocati. Poi si fa fatica, ragazzi. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison. Bonjour, Julie. Bonjour. Das antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino, di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da... Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. State ascoltando un programma offerto da Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole. Nuova meta, stessa passione. Tutti convocati. Ogni promessa è debito. Riccardo da Padova, prima di andare alla grande festa in Casa Mondonico. Riccardo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie della convocazione. Dica. Volevo parlare dell'Inter, quando tifoso, ma mi chiedevo, al di là dell'attitudine, sempre che poi dicono tattica, non tattica, non c'è un po' un equivoco? Questi due esterni che sono i più forti che abbiamo, Perisic e Candreva, però tutti il resto dei centrocampisti non sono fatti per giocare con loro due, perché nessuno chiude mai in area, Icardi è sempre là da solo, abbandonato. Allora è una provocazione, perché tanto no, non è tanto una provocazione, è un tema tattico interessante, Riccardo. giochi con un bel rombo, con Vanega dietro due punte, che ne hai in panchina da vendere, e fai una squadra più logica e forse magari qualche punto in più lo porti a casa. Non so, però io a due come che andrebbe Perisic non rinuncio, cioè piuttosto trovo una, cerco di trovare una soluzione per quel centrocampo. Ieri è stato a lungo in dubbio, insomma in settimana c'è stato a lungo il dubbio Brozovic, Banega, poi risolto in favore di Brozovic. Condombià continua a convincermi poco. So che qualcuno mi scrive, ha mostrato ottima tecnica, fisico devastante, ottima tecnica, vediamo, fisico devastante certamente, però non so se possa essere l'uovo di Colombo per il centrocampo dell'Inter. Voglio però passare a un altro argomento, perché c'è stata grande festa ieri sera a casa di Emiliano Mondonico. Atalanta, Torino, Fiorentina, tutte e tre vincenti in modo convincente, perdonatemi l'assonanza. Ciao Emiliano. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Non so se c'è scappato il cappone per festeggiare. No, piove, la gatta non si muove, accendi la candela e dici buonasera. In questo momento non si può fare altro, non ci montiamo la testa, però siamo sicuri che queste tre squadre ne parleremo a lungo, perché non è casualità. Secondo me è proprio la costruzione di squadre in maniera particolare. Il Torino, con l'arrivo di Mihajlovic, ha ritrovato il tremendismo. Era 22 anni che non andava così bene. Perciò ha trovato il tremendismo, e questo penso sia l'unicità del Toro. L'Atalanta non è più una sorpresa, ma è una realtà. Gasperini ha sommato l'esperienza con la gioventù. I gioventù sono maturi, gli esperti sono entusiasti, e perciò ha trovato proprio il meglio di quanto può essere. La Fiorentina sta giocando per diventare grande. Ed è chiaro che io mi auguro che sia arrivato il tempo, sia finito il tempo delle mele e incominciano quelli delle ciliegie. Secondo me non è ancora pronta, però questa è un'opinione mia, così come è un'opinione mia il fatto che in questo momento, oggi, il 21 di novembre del 2016, l'Atalanta gioca il miglior calcio d'Italia. Sei d'accordo con me? Primo tempo l'Atalanta ha subito. Primo tempo ha subito, ma non in maniera così devastante. Sì, però la Roma ha fatto valere la sua superiorità tecnica. Nel secondo tempo, tanto per dirla come parlano in molti, l'ha asfaltata. Davvero non ho mai visto la Roma così in difficoltà come contro l'Atalanta, e perciò l'Atalanta ha giustificato in pieno, anzi ha dettato in pieno quelle che sono i loro traguardi. Adesso a Bergamo si parla addirittura di champion, ho sentito che si parla di Leinster, addirittura in competizione per lo scudetto. Alta, accontentiamoci di andare in Europa, e vi dirò di più. Parlando con Gasperini, gli ho detto: secondo me è più facile arrivare in Europa attraverso la Coppa Italia che non attraverso il campionato. Lui cosa ti ha detto? E lui mi ha detto: ma abbiamo la Juve nello scontro diretto, appunto così. Hai la Juve nello scontro diretto, sicuramente non giocheranno i titolari, in questo momento la Juve non è che stia andando a mille all'ora, e chissà che non canti il gallo. Sai per cosa vuol dire? Cioè, adesso il gallo è Belotti. Ma ai miei tempi il gallo era Gallo, centrocampista dell'Atalanta, che al 120esimo in una semifinale di Coppa Italia fece gol alla Juve. Sai che me lo ricordo? E ai tempi supplementari fu eliminato. E chissà che ricanti il gallo anche a Bergamo. Dimmi una cosa, ma tu che hai frequentato quell'ambiente, lo conosci come le tue saccocce, come le innaffiano le piantine nell'orto dell'Atalanta? Come le innaffiano le piantine nell'orto dell'Atalanta? Settore giovanile è migliore d'Italia. Durante le cosa annate gli danno da mangiare? No, è importante l'annata. Io ti dirò che ho fatto tanti anni all'Atalanta, e anche lì, parlando con come Mino Favini, il settore giovanile, lo stesso Prandelli, sapevamo che c'era l'annata nella quale questi ragazzi sarebbero esplosi e pronti per la prima squadra. allora si parlava di Morfeo, di Locatelli, di Pisani, di Zanchi, sì, che sono arrivati in prima squadra. Sì. Adesso è chiaro che questa qui è una nuova annata, che sono arrivati in prima squadra attraverso gli insegnamenti del settore giovanile, attraverso proprio la maturità che il settore giovanile dell'Atalanta dà ai suoi giocatori. E vi dirò che non ho mai sentito dei giovani così maturi come quelli che giocano nell'Atalanta. Immaginatevi, i giovani maturi e gli esperti con entusiasmo. Che bella miscela. Che è un discorso che si può fare anche per il Toro, comunque. Perché è una squadra molto, molto giovane, che ha la giusta miscela tra gente esperta e comunque 22-23 anni ormai pronti. E non mi riferisco solo a Belotti, perché se poi vi... Baselli, c'è Benassi, ce ne sono tanti. No, sicuramente il Toro sta puntando anche lui in alto. Ecco perché chissà che in Europa non arrivino Fiorentina, Toro e Atalanta. E nessuno mi voglia male. Però ripeto, l'Atalanta secondo me è meno difficile arrivare in Europa attraverso la Coppa Italia. Dopo fate voi tutti i calcoli che volete. Cosa mi dici di Belotti? Prima leggevo questa statistica: nel 2016, anno solare, Higuain 29 gol, Belotti 21. Io sono vorrei un giorno di questi chiamare il presidente Cairo, che è un amico, e chiedergli di sto ragazzo. Ormai comincia ad essere un crack a livello non solo italiano, eh? Assolutamente sì. Belotti arriva dall'Albino Lecce. Belotti giocava nei giovanissimi dell'Albino Lecce quando io allenavo la prima squadra, e tutti parlavano bene di questo ragazzo. Ne parlavano così bene che anch'io ero rimasto entusiasta dal modo con cui questo ragazzo affrontava la gara. E perciò tutti quanti dicevamo che sicuramente avrebbe avuto una carriera di massimo livello. No, io non pensavo assolutamente a queste condizioni. Però vi dirò una cosa in più: se voi andate a leggere un giornale sportivo italiano di 2-3 mesi fa, quando chiedeva proprio ai suoi lettori chi secondo te vince il campionato, chi secondo te va in champion e chi secondo te vince la classifica cannonieri, l'unico che ha detto Belotti è stato il sottoscritto. Sarà stato un caso oppure perché no. Magari il ragazzo, venendo dall'Albino Lecce, mi inorgoglisce più di altri. Senti una cosa, una squadra invece che non è mai stata tua, ma che sta andando molto bene, con un allenatore secondo me molto bravo, una delle rivelazioni alla Lazio, con Inzaghino, che non doveva neanche essere lì perché era stato chiamato Santone Bielsa, come sai. Invece Santone Bielsa non è mai arrivato, e la Lazio a me sembra una squadra da corsa, almeno per posizioni europee. C'è Anderson, in questo momento l'esplosione di Keita, ma soprattutto di Anderson ha fatto un gol da 30 metri, Anderson che non faceva gol neanche a spingerlo, Anderson che andava, dribblava e poi non tornava. In questo momento sta facendo un grande lavoro per la Lazio, perciò bisogna dare merito anche a Inzaghi di aver addomesticato questi attaccanti. E Inzaghi era un ex attaccante come suo fratello. Sì. Anch'io ero un ex attaccante e ti dirò che abbiamo molta più facilità nel mettere in riga gli attaccanti che non i difensori, perché gli attaccanti pensiamo a quello che abbiamo fatto noi e pretendiamo. Certo, per quanto mi riguarda, che facciano tutto l'opposto. Per quanto riguarda i due Inzaghi, che facciano come loro. Parlando con un difensore è più difficile. Noi che abbiamo sempre cercato di fregare il difensore, digli come deve fare per non farsi fregare. Sì, sì. Anche perché è chiaro che la nostra carriera da calciatore è stata soprattutto la fase offensiva. Certo. Perciò non mi meraviglia che in questo momento Keita con Anderson stiano facendo un ottimo campionato, perché se l'allenatore è un attaccante, Sicuramente gli attaccanti hanno una vita positiva. Sì, sì, sa quello che ti deve dire. L'ultima cosa, Emiliano, come hai visto la prima Inter di Pioli? Positiva, il primo tempo positivo. Il primo tempo la gara l'ha fatta l'Inter. Secondo tempo il Milan è partito, ha fatto gol, poi dopo l'Inter ha avuto la, la, la grande forza di reagire due volte e di raggiungere il pareggio due volte. Questo è molto molto positivo, perché vuol dire che la squadra sa reagire. Non vorrei che la squadra incominciasse a girare quando prende uno schiaffo, è meglio che si incominci a girare subito. Però ho visto tutt'altro che rassegnata. Ecco, l'unica cosa, Icardi. Se abbiamo in squadra giocatore come Icardi o come Bacca, parlando del derby di ieri sera, bisogna imparare a dargli la chiaro, palla. È chiaro che dobbiamo giocare per loro. Sì. Candreva ha fatto un gran gol da 30 metri, però Candreva non può arrivare 30 volte al limite, cioè sul limite dell'area 30 volte tirare in porta. Ogni tanto deve pensare che Icardi fa un movimento per riceverla davanti al portiere. Ciò deve essere un po' più altruista. Utilizzato. Poi tanto di cappello quel gol che ha fatto. Se andiamo a vedere tutte le volte che ha calciato verso la porta, che ha cercato di metterli in mezzo e la palla la prendevano gli altri, allora capisci che io centro avanti e dico, oh amico, me la dai o no? Io vado avanti e indietro e non me la dai mai. Dice qualcosa che non va. Sì, hai ragione Emiliano. Questo vale anche per Bacca dall'altra parte. Ti ringrazio. Assolutamente sì. Dopo è chiaro che prendono i quattro in pagella. Però da attaccante ti dico che è difficile giocare attaccanti in una squadra che non ti serve, chiaro, che non ti dà la palla, dove devi muoverti in funzione di non so chi e di non so che cosa. Devi fare il movimento e poi non la vedi. Tu fai il movimento, ma non sei il punto di riferimento. Sì, chiarissimo. E questo ti dico, da attaccante è il massimo della delusione, perché se non te la danno mai, alla fin fine dici, cioè pensi tante cose e ne dici una sola, ma vaffa, e lascia a voi tutto il resto. Ciao Emiliano, grazie. Grazie a voi. Forza Fiorentina, forza Atalanta e forza Torino. E grande festa in casa Mondori. Grazie davvero, grazie Emiliano. Allora, adesso vi faccio sentire una delle mie rubriche preferite, la top 3, che in questo caso ha un'aggiunta, un track ulteriore, prima di Giuseppe e Raffaele, che sono già in linea. Allora, la top 3 delle dichiarazioni della domenica. Abbiamo parlato di Belotti, sapete qual è il segreto? Come lo carica Mihajlovic? E fine primo tempo è venuto a dirmelo, ma come sono venuti altri dello staff a dirmelo. Come? In che modo le dice queste cose Mihajlovic? Ci interesserebbe capirlo. Come? Ecco. All'inizio è stato calmo, però si sa com'è, ogni tanto una pacca sulla spalla abbastanza forte. Hai capito? Non messo le mani addosso te, molte meno. Allora, seconda dichiarazione, prima è stato nostro ospite Massimo Mauro. Ieri ha parlato di Pioli. Chi è che ti ha telefonato per dirti vieni all'Inter a fare allenatore? Ma è importante che io sia qua. È importante che poi ce lo dici. Non credo che sia così importante. Chi mi ha chiamato? Allora, il mio telefonino ce l'hanno in tanti, quindi l'importante sì, è che. Ma dimmi chi ti ha chiamato, scusa, ma perché non lo puoi dire? Ma qual è il problema? Ma è stato il direttore che mi ha chiamato, ci mancherebbe altro. Ah, ok. Pier Ausilio. Sì. Sono stati compagni di squadra, certo, la Juventus. Comunque, il direttore, Pier Ausilio, dovrebbe essere lui il direttore dell'Inter, no? Allora, Suso aveva promesso, se faccio la doppietta vado a casa a piedi, abita a Varese, un po' lontano da San Siro. Non ci va a casa a piedi. Vai a casa a piedi, dove abiti? No, io abito a Varese, no, l'aveva detto che si faceva una doppietta, ma pensava che se si vinceva la partita... Non vale, ho detto doppietta, l'ho letto l'articolo, non è se si vince. No, io l'ho detto. Cambia le scarpe. Non è uscito così l'intervista, non è colpa mia. No, queste cose non si fanno, Suso, si fanno quei gol pazzeschi. Anche il secondo, abbiamo detto, siamo stati d'accordo con Zaccheroni, cioè il primo una meraviglia, però anche il secondo in cui in un millimetro su un Franco Bolola ha piantato lì Miranda e l'ha messa nell'angolino. Però le promesse si mantengono. Allora, extra track, quella di Ferrero su Muriel. A proposito dei numeri, quanto vale Muriel adesso? Muriel ha sempre valso molto, perché altrimenti non investivo su Muriel 12 milioni, no? Muri è un giocatore vero, un giocatore che fa la differenza. Murier io lo seguo da prima del calcio, mi è piaciuto, ho la fortuna di averlo, l'ho preso, mi ero infortunato, me lo so accoccolato, l'ho messo a posto, mi avete criticato e oggi me la prendete dal culo. Chiaro, no? Chiaro il messaggio. Benissimo, adesso Giuseppe da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senti, io volevo intervenire per quanto riguardava il derby di ieri sera. Penso che come tanti abbiamo visto la partita, anche se forse visto bisognerebbe metterlo tra virgolette. Sì, tra virgolette, sono d'accordo. Intendo, ecco, non so se forse si riferiamo alla stessa cosa. Mi scuso se qualcuno è già intervenuto su questa cosa, ma ho cominciato ad ascoltare da pochi minuti. Cioè, mi meraviglio del fatto che oggi con riprese satellitari dallo spazio super HD, dopo non si riesce a capire qual è una squadra e qual parlato, è l'altra. Ne abbiamo parlato ampiamente, Giuseppe, sarebbe stato meglio. Adesso si usano tutte quelle maglie variopinte, color evidenziatore, color sprite, eccetera. Avrei preferito vedere una delle due squadre in una di quelle maglie orrende e paradossali, che poi in realtà ci sono delle seconde maglie meravigliose, che hanno sia Inter che Milan. Però ieri sera è stato davvero un disastro dal punto di vista cromatico. Mio amico Stefano Melocaro, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Beh, non è che la maglietta e soprattutto i pantaloncini di Marra e durante questo fossero tanto meglio, questo te lo dico in tutta sincerità. No, però almeno sai chi è Murray, sai chi è Djokovic, uno da una parte e l'altro dall'altra. Sì, quello sì, perché lì si gioca col cielo a rete, per cui si capisce. Sì. Per cui si capisce. Come va con Fiorello? Tutto bene? Tutto bene, se eccettuiamo il momento in cui suona la sveglia, tutto bene. A che ora suona? Eh beh, suona alle 5, suona perché alle comunque 5. devi essere lì per le 6 meno un quarto, perciò fantozianamente basta che tu vada a dormire vestito con le scarpe e tutto, riesci a essere in edicola per l'ora giusta. È chiaro. Senti, Murray sempre più numero uno, anche a Londra coperto di coriandoli con il trofeo. Murray sempre più numero uno, sarebbe stato veramente incredibile pensarlo a giugno, no? Quando Djokovic vinse Roland Garros tutti dissero no, ormai questo fa il Grand Slam e chi lo ferma più, non perderà più uno Slam fino al 2024 quando noi faremo le Olimpiadi e Murray Djokovic continuerà a vincere tutto sempre. E invece nella vita è così, ma attenzione, c'è una motivazione in questa flessione di Djokovic. Il santone. Pare, al di là delle motivazioni tennistiche, dell'assenza di stimoli probabili, del fatto di quello, però pare che ci possano essere, non mi far dire di più, ma ci possano essere delle motivazioni di carattere personale alla base di questa flessione. Guarda, di Djokovic. Io ti dico che l'altro giorno ho parlato con da queste frequenze con Vincenzo Martucci, che è un caro amico, e abbiamo parlato della moglie di Djokovic, che è un discreto... Sì. Satanasso. Sì, e poi del santone che mi preoccupa abbastanza. Abbiamo visto Djokovic impegnato in queste pratiche con il santone. E no, Vincenzo, al di là di queste cose, diceva che Djokovic sembra in una parabola non semplice. Guarda, io non voglio, però le voci di corridoio, cose, insomma, dicono che ci potrebbero essere, ripeto, delle motivazioni extratennistiche di questo momento. Ieri Djokovic, voglio dire, non è neanche lontano parente di quello. Appunto. Che vedeva. Ha sbagliato ieri un paio di cose sulla rete, ma proprio lo vedi agli occhi spenti, non è più quello che era prima. E pare che la motivazione non sia soltanto tennistica, ecco, questo serpeggia. E ci sta, perché a vederlo giocare adesso ti chiedi, ma questo che ha fatto? Cioè, che gli è successo? Possibile? Sì. Esatto. Quindi da questo punto di vista potremmo prima o dopo rivederlo, cioè non è un tennista in fase canante, questo mi sembra evidente. No, io credo che adesso lui si ricaricherà in qualche modo, si prende proprio il suo mesetto di pausa, cioè pausa attiva, perché ovviamente la stagione ricomincia in Australia e ricomincia a metà di gennaio, per cui... però fatico, cioè, non posso pensare che finisca qui, nel senso, secondo me lo ritroviamo più cattivo e determinato di prima, soprattutto se riuscirà, ripeto, se a davvero è così esatto. Grazie Stefano, è sempre un piacere. Grazie a te Carlo, a presto. Grazie Stefano Melocaro. Ciao. E con Stefano Melocaro chiudiamo il programma ringraziando Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Alvise Falzo in redazione. Vi aspetto domani, come sempre, dopo l'Europa, quindi poco dopo le 14, tutti convocati. Ciao. Fatto, dai, spegni il bianco, il rosso o il verde, dai, uno dei tre, spegni.